Ciao a tutti e bentornati a questa nuova puntata di G-Cookies. Oggi siamo alla puntata numero 20, quella un po' più corta tra le due monotematiche. Oggi abbiamo come ospite dalla Sardegna l'amico Giuliano. Ciao a tutti e ben ritrovati. Ciao e grazie per essere con noi. Oggi parliamo, diciamo che non è una di quelle puntate che vi fa spendere un sacco di soldi, una puntata quasi monotematica, e parleremo di Arduino. Perché di Arduino? Perché a inizio di aprile c'è stato l'Arduino Day. In Italia mi pare che ci fossero 3-4 sedi che festeggiavano l'Arduino Day, e quindi oggi parleremo un po' di questa scheda. Innanzitutto, cos'è l'Arduino Day? È un giorno tra fine marzo e inizio di aprile nel quale si festeggia l'Arduino. Festeggiare significa incontrare la comunità e vedere, conoscere progetti, conoscere persone nuove, insomma una specie di mini Maker Faire molto focalizzata su Arduino. Quest'anno a Torino c'è stata al Fab Lab, in dimensione un po' ridotta, secondo me un po' troppo, ma perché il toolbox, che sono gli spazi accanto, erano già occupati, quindi è stato tutto fatto nel Fab Lab e lo spazio a disposizione era veramente poco. E l'Arduino Day chi può organizzarlo? Può organizzarlo chiunque, praticamente se ci si mette d'accordo in un gruppo di persone con un anticipo giusto, si contattano i signori di Arduino, gli si dice: guardate, vorremmo fare qui l'Arduino Day, si dice cosa si vuole fare e l'evento compare sulla mappa degli Arduino Day. Quindi se siete appassionati e conoscete gente appassionata e nessuno fa l'Arduino Day vicino a casa vostra, fate voi l'Arduino Day, cercatevi un posto e conoscerete un sacco di gente interessante. Bene. Vi dicevo, anzi no, Giuliano, in Sardegna non ce n'è, vero? No, in Sardegna c'è stato, ed è esattamente, c'è stato al Fab Lab del CRS4, credo, dove, insomma, credo che ci sia una delle comunità più attive, insomma ci sono diversi, adesso credo che ci sia un Fab Lab anche a Cagliari, ma quest'anno l'Arduino Day l'hanno organizzato lì, non credo in forme spettacolari, ma comunque se non altro l'hanno organizzato. Guarda, neanche quello di Torino era in forma spettacolare, io sono rimasto parecchio deluso da come è stato organizzato. Perché alla fine c'erano 5 maker in tutto, c'erano due stampanti 3D che stampavano e qualche progetto. Progetti interessanti, perché per esempio il plotter che scriveva Genuino Day su tutto il muro con tutto il rimando di fili era veramente carino. Mm-hmm. Piuttosto che c'è un gruppo di appassionati di Pinerolo che è qua vicino a Torino, che ha fatto con l'ESP e poi lo ha interfacciato con una T-Mega, ha fatto la casa domotica, quindi accendi le luci, spegni le luci, apri il cancello, tutto via web. Beh, quel bellino, insomma. Sì, diciamo sì, un progetto interessante. C'è un'altra persona che ha preso un vecchio 33 giri, o era un 45, non mi ricordo più. Sul piatto si appoggiavano dei magneti, sull'asse della testina ha tolto la testina e ha messo dei sensori per il passaggio dei magneti. A seconda di dove mettevi il magnete suonava il pezzo di una batteria, e quindi tu su questo piatto piazzavi i magneti e ti facevi la tua musica facendolo girare, cioè il loop praticamente. Sì, un loop di, non era, mi pare, 8 quarti, e c'era la gente che si divertiva a fare queste composizioni che talvolta erano solo del rumore, talvolta era anche un ritmo carino. Dai, però, insomma, un'idea nuova. Carina, carina. Ecco. Sì, molto, sì. E poi hanno fatto la presentazione del Maker 1000. Il Maker 1000 è questa nuova scheda di Arduino genuino, perché non so se vi ricordate, in Europa Arduino si chiama genuino per problemi di scissione. Insomma, ne abbiamo parlato qualche puntata fa. Questa Maker 1000 è una scheda con un Arduino Zero, quindi il 32-bit. Dentro ha una parte Wi-Fi e qualche funzione extra. Diciamo che è l'Arduino pronto per l'internet delle cose, perché l'Arduino vecchio senza la connettività per l'internet delle cose non poteva essere usato. Questa scheda qui è più orientata a questa cosa qua. E visto che parliamo da parecchio tempo di ESP, di Wi-Fi e queste cose qua, volevo sentire un po' da Giuliano quel che pensa di questa scheda. Diciamo che allora, rispetto alle prime notizie che erano venute fuori, mi sono un attimino ricreduto sulle potenzialità della scheda. Intanto perché comunque in prima battuta pensavo che fosse un pochino limitata, e cioè alla fine pensavo fosse un Arduino con integrata la Wi-Fi Shield di una volta, quindi niente di nuovo sotto il sole, se non l'integrazione in SOC praticamente delle due cose. Invece il bello di questa schedina qui è questo, e cioè dentro il SOC, dove c'è diciamo la parte dell'Arduino Zero e la parte del Wi-Fi, ci hanno messo anche un chip dedicato alla crittografia, cosa che sull'ESP, per esempio, che è quello che conosco meglio, non c'è, e si sente questa cosa qui, cioè si sente il fatto dell'assenza di questo chip. Certo, sono ancora un po' così sul prezzo, che secondo me è un pochino alto, però come tu mi dicevi, c'è il discorso del cloud, che ancora non credo sia in funzione, o sbaglio? Allora, il cloud, dunque, hanno presentato questo, era un progetto che io avevo visto all'Arduino Day, lanciato in beta chiusa 2 anni fa. Praticamente, al posto di scrivere codice sul tuo IDE di Arduino Java installato sul tuo PC, tu ti iscrivi al loro cloud, sviluppi codice sui loro sistemi, poi tramite un agent che installi sul tuo computer, l'agent vede l'Arduino, che sia USB, che sia poi Wi-Fi, e scrive il tuo sketch direttamente sull'Arduino. Quindi tu da qualunque parte ti puoi mettere a sviluppare per Arduino e lo scrivi sull'Arduino che hai a casa. Sì, ma aspetta, ma lo scrivi sull'Arduino che hai attaccato al PC di casa, sbaglio? Sì, giusto, giusto. Ah, ma tu puoi essere da qualunque parte. Ok, è una specie di codebender. Definisci codebender? Codebender è proprio una piattaforma dove praticamente tu programmi per Arduino e tramite un plugin, adesso anche di Chrome per esempio, lo scrivi poi sull'Arduino. Non l'avevo mai sentito, però in effetti funziona così, con un vantaggio. Il vantaggio è che tu puoi sfruttare tutta la parte di cloud di Arduino per far girare il tuo sistema IoT, cioè se tu vai sul cloud di Arduino hai tutta una serie di funzionalità che sono già pronte e disponibili per essere sfruttate dalle schede che si collegano a internet. Quindi è una piattaforma open source che sta sui server dei signori di Arduino. Perché io penso che la scheda costi così? Perché tu non paghi l'accesso a questi sistemi. Ok. loro ti offrono questo servizio. È una cosa che non ho capito molto e che ho patito sia 2 anni fa che ora, perché io gli ho posto la stessa domanda: ma il vostro modello di business qual è? Mi hanno detto non lo sappiamo ancora. Va bene, e il non saperlo ancora mi ha lasciato un attimo basito. Cioè, tu hai fatto tutta questa piattaforma che tra l'altro è molto bella, funziona molto molto bene, ma non sai come funziona. È un po' triste, nel senso che secondo me hanno peccato di lungimiranza, nel senso non sono stati lungimiranti neanche un po'. Perché io non capisco che senso abbia fare tutta questa roba qui per poi non farci dei soldi sopra. Ma quello che mi viene da pensare è che abbiano idea di farli in altri modi. E comunque questo argomento qui mi pare che sia stato alla base poi della scissione di Arduino, insomma. Il fatto sì, si sono scissi, perché poi l'altra parte di Arduino, da quello che ho capito, si è orientata molto più all'industriale. Arduino in Europa, Genuino, si sta muovendo anche sull'industriale. Hanno presentato dei PLC basati su Arduino, soprattutto PLC program, allora, dell'esatta forma che viene messa nei macchinari. Quindi sono assolutamente compatibili. Certificati a codice libero. Di conseguenza tu non hai bisogno di chiamare la persona di Siemens dopo che hai comprato un PLC che ti costa magari 10.000 euro. Devi pagare anche la persona 1.000 euro al giorno per modificarti la programmazione. Tu compri un Arduino in formato PLC che costa X, non ci ho detto quanto costa, ma ce ne sono di società terze, perché Arduino, essendo open hardware, gestisce anche questa roba qua. Mm-hmm. Cioè permette agli altri di fare delle schede di Arduino senza dover pagare i diritti ad Arduino. E li compri e li programmi con uno sketch normale di Arduino, quindi tu puoi gestirti la tua macchina industriale facendo codice come se fosse l'Arduino che usi per accendere e spegnere i LED. Beh, certamente è una buona cosa rispetto proprio al fatto che invece, o meglio, adesso, ma comunque programmare un PLC fino a qualche tempo fa non era una cosa per tutti così, insomma, semplicissima. Diciamo che Arduino anche non è per tutti, però ha lo scalino di attacco molto più basso, non è sicuramente più semplice. Per tutti, ma diciamo che anche un programmatore non espertissimo con un PLC avrebbe avuto qualche difficoltà. Con Arduino riesci ad arrivarci, ecco. Giusto, giusto. E questa cosa funziona, nel senso che ci si sta muovendo molto. Io ho visto dei progetti fatti su Arduino che finalmente arrivano nella vita reale, e il PLC è un esempio assolutamente di tutto rispetto. E ora bisogna capire questo Maker 1000 se ha il successo che loro si aspettano. Io continuo a essere convinto che un dispositivo così, che costa 31 euro più IVA, continua a essere caro. Cioè, io non posso pensare di mettere 10 sensori a casa mia e spendere 300 euro più IVA solo per la parte di elettronica. E poi i sensori, la scatola, eccetera, comincia a essere caro. Io con l'ESP ne spendo 5. Grazie a te, tra l'altro. No, la verità è anche un'altra, che diciamo che loro devono spingere molto in questo periodo, perché appena l'ESP32 arriva a fine beta, credo che saranno dolori per loro. Ma l'ESP32 cos'è che ha di più dell'ESP attuale, oltre i 32 bit? Allora, a parte, diciamo, un hardware sicuramente molto più potente, funzioni di crittografia simili a quelle che sono adesso nel Maker 1000, e poi per esempio ha il Bluetooth integrato, per arrivare ad un E beh, con il Bluetooth comincia a essere interessante davvero, eh? E poi, dai, quanto ci aspettiamo che costi? Io mi aspetto che costi 15 euro, $10. Non di più, insomma, ecco. Quindi, scusami, ti ho parlato sopra, io avevo detto 10 dollari. Ah, io mi aspetto una fascia tra i 10 e i 15 dollari, quindi un massimo di 15 euro, ma è probabile che questa fascia sia verso il basso, non verso l'alto. Quindi già ci hanno stupito con i costi dell'ESP, che in fin dei conti noi compriamo delle dev board che quindi hanno dentro qualche componentino in più e che quindi arrivano a costare 5 euro. Ma se ti accontenti, oddio, se puoi usare un ESP 01, siamo veramente sotto i $3. Quindi, sai, $3, $35, la differenza si sente tanto. Fa parecchio la differenza, La differenza si sente tanto. Ecco perché dico, devono cercare di pompare. Anche perché poi, comunque, io capisco tutta la loro parte cloud e quindi la diciamo semplicità di programmazione eccetera, però anche dall'altra parte e dalle altre parti, perché comunque ci sono anche altri dispositivi, non è che staranno certo a guardare, quindi anche questa parte cloud o è veramente una cosa massiccia, nel senso serve sicuramente a far funzionare bene le cose, altrimenti anche quella sarà ridimensionata, credo. Non so, dobbiamo... Allora, secondo me adesso la questione è che è tutto ancora in beta, non è maturo. Sono curioso di vedere come evolve questa faccenda del Maker 1000, su come si comincerà a utilizzarlo. Hanno fatto un concorso, devo essere sincero, non ho guardato tutto quello che è arrivato. Quindi, come sempre, il limite sarà la fantasia di chi ha questa scheda per le mani. Sono curioso di capire se questa faccenda avrà veramente del seguito oppure no. Io qualche dubbio ce l'ho, ma per il prezzo. È soltanto quello. Guarda, un'altra cosa di cui non abbiamo parlato e che mi è piaciuta è che così a naso, però lo dico proprio così a naso, credo che sia stata anche un po' spinta dalla collaborazione con Adafruit, è il fatto che sulla scheda ci sia anche la possibilità di essere alimentata e quindi ricaricare una batteria lipo, che comunque in certi casi è comoda, ecco, piuttosto che utilizzare le stilo che magari non sono così piccole eccetera, potrebbe avere un senso. Però torniamo sempre al discorso che col prezzo non ci siamo. È tanto alto, sì. Però dico, guarda, probabilmente bisognerà proprio attendere la fine del concorso per vedere le idee che hanno sviluppato, per capire fino a che limite ci si può spingere con la scheda, e lì probabilmente ci potrà essere o una rivalutazione della cosa, per cui tu dici, ah beh, però dai, si può fare anche questo, e magari 35 euro si possono spendere. Altrimenti, se siamo sulla stessa linea di quello che adesso si può fare con un ESP, insomma, la vedo in salita, ecco. Non ci resta che aspettare e attendere. Resta il fatto che io ho patito un'altra cosa dei signori di Arduino. Me la sarei comprata la scheda se avessero avuto il banchetto lì. Invece no. Cioè io dico, quanto puoi essere fesso a livello di marketing? Fai un evento dove saremmo stati un'ottantina, un centinaio, e non presenti la scheda nuova e non metti il banchetto. Anche perché il discorso qual è? Avrei capito se fosse ancora in beta, quindi no. però l'hanno lanciata dal giorno. Cioè l'hanno messa in vendita il 2 di aprile. Infatti. E non fai un banchetto dove tutti te la comprano, ma secondo me lì il 100% delle persone che c'erano se la sarebbero presa, no? Sì, sì, assolutamente. Probabilmente se non il 100% è il 99%, perché ci fossi stato io al centesimo non l'avrei presa comunque. No, io penso che l'avrei presa, perché secondo me era interessante. Però mannaggia, cioè davvero mi sembra così fuori di testa. Sì, in effetti anche perché non gli sarebbe costato niente, insomma, voglio dire, tra l'altro erano lì, voglio dire, nella loro sede più o meno, quindi insomma. Non capisco, non me lo spiego proprio, è veramente, veramente, veramente strana la faccenda, gli sarebbe bastato poco. Mm-hmm. Sì, sì, secondo sì. Me hanno ciccato sulla linea del marketing, mettiamola così. Ah sì, guarda, comunque riassumendo, io dico questo, l'hardware mi piace, nel senso che lo trovo abbastanza compatto, ha delle buone chance, anche perché integra tra l'altro un buon DAC che in questo momento su altre piattaforme non c'è, per cui ripeto, sull'hardware io insomma mi piace, ecco, mi piace, non a meno che di non trovare una specifica applicazione per cui mi serve esattamente questo, se non sarà per qualche come si può dire, regalo che mi faccio, probabilmente non credo di arrivare a comprarla, insomma non ha come possiamo dire solleticato il portafoglio del podcast, mettiamola così. Purtroppo no. Bene, bene, bene. Direi che possiamo chiudere dopo questi 20 minuti di chiacchierata con solo un'altra cosa che io vi ho lanciato in chat e non mi avete creduto né uno né l'altro. Hanno presentato questo Get Wearable. Allora, non ho ben capito perché l'hanno presentato durante l'Arduino Day, secondo me era un mezzo sponsor, però immaginate un braccialetto con una sua batteria, il Bluetooth e un coso che vibra, basta, non c'è display, non c'è LED, non c'è niente. Il braccialetto si interfaccia con il telefonino e tramite gesture vi permette di fare alcune cose, ovviamente. Il braccialetto vibra sulle notifiche, vibra per la sveglia, vibra per le chiamate. Ah, dimenticavo, il braccialetto ha un microfono. Voi fate così, prendete il braccialetto, ve lo mettete al polso e configurate le gesture. Per esempio, giro il polso in senso orario, accetto la chiamata, giro il polso in senso anti-orario, rifiuto la chiamata. Piuttosto che mi arriva l'SMS, lo voglio leggere oppure no. Come avviene la comunicazione dal telefono che resta in tasca a voi? Io non ci volevo credere, ma me l'hanno fatto vedere. Il braccialetto vibra e trasmette le onde sonore sulle ossa. Voi mettete il dito sull'orecchio e sentite il messaggio o la telefonata. Ma aspetta, ma tu hai provato e realmente sentito? No, non l'ho provato l'audio? Perché non ce l'ha fatto provare, ma io l'ho visto funzionare. Io questa sono ancora cosa... un po' scettico, però devo dire la verità. Però sai che bello che non senti più la gente con le notifiche, non senti più la lettura dei messaggi vocali, non senti più niente. No, ma no, aspetta, tu vorrei essere chiaro, se funzionasse sarebbe quello che compro domani, ok? Ma sono scettico sul funzionamento, perché capisco la trasmissione ossea, cioè conosco l'argomento e quella sul cranio funziona perfettamente. È che non mi viene da pensarla tramite il polso che poi viaggia sul dito e poi il dito trasmette le onde sonore all'orecchio. Cioè ci vuole veramente tanto per arrivare a una cosa del genere. E sono un invece po'... pare proprio che funzioni, sai? Guarda, ti giuro che se lo provo me lo compro. Getwearable.com, ma lo lasciamo poi nelle note dell'episodio, ok? Ma, ti giuro che sembra uno di quegli accessori da fantascienza, dai, diciamoci la verità. Sono assolutamente d'accordo. Perché, guarda, sai... Questo allora va bene, l'orologio, lo smartwatch fa tanto figo, ce l'abbiamo tutti adesso, ma questo veramente è una nerdata incredibile. No, ma guarda che davvero, se questa cosa prende piede è uno spettacolo. Però diventeremo tutti quanti scemi perché passeggeremo tutti quanti con il dito appoggiato sull'orecchio. Ti giuro, mi è venuta la stessa immagine. Pensa alla gente che ti vede col dito appoggiato mentre parli. Bello, bello, bello, bellissimo. Sarà micidiale, guarda. Va bene, direi che possiamo chiudere qua questa puntata di intermezzo. Abbiamo fatto 25 minuti, mi sembra una durata assolutamente accettabile. Che ne pensi? Assolutamente, abbiamo parlato di tutto. Molto molto bene, e a questo giro non vi abbiamo spinto a spendere tanti tanti soldi, quindi comprate su Amazon con i nostri link, che così date a noi qualche soldino, mi raccomando. Allora chiudo con le solite note di chiusura puntata. Innanzitutto ringrazio Giuliano per essere stato qua con me in questa puntata. Vi ricordo che ci siamo su Twitter, su Facebook, su Google Plus, ci potete mandare una mail, trovate tutti i contatti su GitHub, su gcookies.github.io, è inutile che ve li ripeta tutti. Sullo stesso sito trovate anche il link al forum sul quale noi vorremmo portare tutti quanti voi a chiacchierare. E vi ricordo anche che sempre sul sito trovate i credit della nostra sigla di apertura e di chiusura. A questo punto non mi resta che ringraziarvi per l'ascolto, salutarvi e darvi appuntamento alla prossima volta. Un saluto grande da Francesco e un saluto da Giuliano. Grazie a tutti. Grazie, ciao.